c'è la Giomarie. Allora. Cos'è Giomarie? A città ne entrava qualcuno, vedi? Giulia. Tutta la rinfignato a nelle torrelle a te camminare bene ma fare bene di me. Certo, in movimento, uia uia, anche a tempo di nulla. Purtroppo. Chi su me si è un ben pignato. E purtroppo è così. Domani avanzare è ancora peggio. In macchina io non me ne docca, sta tranquillo. Purtroppo sì. Devo uscire domani mattina e devo fare un sacco di commissioni. Certo, ma giù la mera, un pezzo di mera nera ora, non riesce a ingudizzirlo. Vabbè, da un poco. Mi sono andata a te, vai, ti basta. Ma a me c'è Franco, mi Giomarì. Ciao Giomarì, buonasera, spero che mi ascolti adesso. A Rivoli. Rivoli. Paga, dai, contraccambio il rapporto, 5-7, sì, Giomarì. Ella, signor Fra, buonasera anche a lei, ben sentito. Oh, dici che sei pippante. Oggi mi ascolti meglio. Se ti ascolto meglio, sì. Non mettere la strada che ti intendi a basso. Perché adesso sono a casa, l'altro giorno ero in campagna. Andemmo. Riprende la Giomarie. Secondo piano, no terzo. No, terzo piano è mio. Se lo fai spesso, sì. Io sono caro primo piano, quindi fare in agio poco da va. sembra che sia sentato. Infatti, oh, ancora gioco atletico a farli fino al terzo piano, poi che non avrà fatto più, e quindi mi può ammarregare l'ascensore. Ah, Gesù si è fatto mettere di ghio, di zio è fresco, beh. Infatti, non lo so perché in uno di questi appartamenti vita zia dei miei zii ci stavano e ci abbia per fare l'impianto nuovo che si è avuta per fare i dracci, per fare i dracci. Oh, yeah. Di quelle ne ha, io direi giù un po' di chi sia, ma invece mi erano i figli. Vendono mi quello, Gio Marie, quello lo vendono ancora, quel filo fatta treccia. Ehi, si è fatto bene, no, non si tratta così, no. Già ho conosciuto quel filo lì. Infatti io mi ha giudicato tutto l'impianto e gliel'ho rifatto a nuovo, casa di mia zia. Già ho messo tutto a posto, gliel'ho messo. Io di quei muri lì ne ho sistemato uno, grazie a bocca a bocca che mi era tutto varato, e io l'ho messo a posto, mi è toccato travagliare con i guanti, no, con le mani, no, con i guanti, anche se no mi drappava. scatta e fa buccare, ci deve buccare con un drapano, deve usare una punta con le cose d'acciaio, che non ci rimagna. Infatti andava, io mi ricordo tanto tempo fa ne ho messo una in un della nuova diaragira a tempo libero, avevo messo a parte una, ne avevo messo a posto, ha aggiungato lo gozo intonaco, ha aggiungato fa per un liggio, ne ha già fatto un trubetto vero, gli ho fatto intonaco, gli ho rifatto tutto a nuovo dentro nella camera. Ancora ci si, e pare si è avviato. Aspetta che proviamo a chiamare al signor Bacchigio, che mi pare quando sono andato via poco fa a prendere la mia moglie la Cinteggio. Attenzione Bacchigio, non da va, non c'è, no. Non c'è, deve essere che ce l'ha spenta. E io quando gli ho fatto l'impianto da mia zia ho dovuto fargli le tracce nuove e mettergli i tubi per infilare i fili e gli ho fatto tutto quanto fin se n'era bovida. Divela via mezzo erano i voti di bovidi, catta erano i fatti veri, erano i fatti e non si sentiva nulla, non badava a nulla, non badava, erano fatte bene, erano fatte, però quando gli ho fatto l'impianto io nella bovida che ne ho cazzenne piano piano ho dovuto cazzare qui caipedo prende piano piano anche se non ti imparava tutto. Infatti, certi sono fatti proprio, bisogna camminare piano piano, ma dove abitavano i miei zii, ho visto che non badavano e camminavano, erano i bizzini che corriano e non badavano. E cosa, io venne nell'impianto, catta, vivo lì a Sant'Antonio, ma fa bucca. E infatti, no, le cose, quelle dove abitava la mia ha tutto, davanti ha tutto dracchite. Però qualche indrento erano infatti una specie di mattoni irani, mattoncioni irani. A Buccali vivuria Sant'Antonio vivuria, infatti avevo usato io lo coso ta fa fare la braccia. infatti. Ah, io fa fargli un buco a sciafura. Cata, vabbè, c'è pure tu. Non un goccio, ma giammai non mi si blocca pure l'umoto picco. Fa bucca da 80 centimetri. Infatti, purtroppo. Ma qua a Valigio tutte le strutture in buro. Cioè sono parecchie che le stanno ristrutturando, le stanno mettendo a posto, a giubilto. Che non mi hanno molto a posto tanto tempo fa. Infatti, se vuoi un altro luogo che non so, ma chi di zene che si già là che 80 centimetri già, di ferro freddo non viene in questi casi, di chiunque freddo, cata, ci trattiamo. Infatti è così, prima ha fatto tutta tracchite e poi viene già un bel che sono stati fatti a cantoni. E di chi se ne venga ancora, amici, chi non sono stati dentro una gatti fuori, si vede i cantoni. Infatti, è così, purtroppo è così, purtroppo no, perché così non si può fare. Io ho visto palazzi fatti a cantoni, a Trento, tutti pieni di umidità. Una signora che l'ha data in mano a un'impresa e l'hanno fatto tutte le gamari, gliele hanno fatte, l'hanno baciato il dottore, gli hanno messo i mattoni da 8, gli hanno messi forattini da 8 con dietro l'isolante per isolargli l'umidità. A chi va via, dice che va via un'umidità che non finirà più. Sì, ce ne sono parecchi che ne è farendo un trintonaco, ne è farendo, e si vede che ci ho fatti a cantare a cantoni, si vede. Infatti la signora in tutto il barazzo è entrata in impresa e gli ha fatto i muri con i forattini, gli ha fatto in tutti i canti il barazzo. Tutti i gebbiani c'era il primo piano, abbiamo fatto tutti fatti a mattoni dove capitava esternamente. No, ma è quelli dove c'erano i muri che erano umidi, gli hanno fatto, gli hanno messo l'isolante e più il mattone, il muro a mattone gli hanno fatto. Gli hanno fatto una bella cosa, così a manco non entrava più l'umidità di dentro. Da questa signora invece vira, è solo una villa di cantoni. E rasseccati e fatti l'intonaco. Allora, ogni anno l'intonaco ne riparava. Allora lì in Chivia, in Bolsoritina, hanno dato un'impresa e l'hanno fatto l'hanno buttato l'isolante e più di mattoni l'hanno buttato. E dalla di, infatti la giovo da poco tempo fa, dalla di non è entrato più in umidità. Anche se ho fatto in economia, ci ho fatti, ecco cosa è. Se ho fatto in economia, ci ho fatti. Oh, di vita di mia figliola no, non si intende nulla. Si sono usciti, ed è che si sono usciti da quando stavo lavorando io giù da nel divisore delle cose, della locomotiva, da che si gasi l'hanno fatti nelle travi per andare nel polistirolo in mezzo. Prima ci fatti a mano, andiamo giù a travagliare Dio da Enochi da Marras, tutto a mano, lo ferro. E poi per finire che si barazzi hanno finito con i travi con un polistirolo in mezzo. E infatti chi ci sono i casi più caldi, invece l'altri no, l'altro è appena più giosso uno. Certo, Gitto, abbassi sì o abbassi no? Quando avevamo iniziato di noi, eravamo finiti, facciamo una base che ci sono stati finiti con i drapi e pure se no, all'altra base con i bignati. Fare più leggeri che il cemento, pari, quando rubboni, il rotore si sbriciola. Ma infatti no, non è in cosa, in che da, quando se viene a che cosa, fare domani è tutto, ma è tutto. Ah, come topi così, si sarà subito. E allora se passendi, hai visto? Se passendi l'ora. Ehi, Giovanni. e poi c'è mangia Rudy. Ci rimaniamo in casa. Oddio, io domani a mezzano, Gina, non so che lo devo rientrare, che già accompagna mia figliura. Oh no, boh, non lo so più, dietro di Rodingu. No, non lo so, Gian Maria. Sicuramente rientrerò verso le 11, 11 e mezza. Mentre arrivo devo fare a Merugani io su. Ehi, ehi, già devo passare dal coso e chiedere a Pericante una fotocopia. Secondo quanto è, gliele lascio e me le faccio fare. Ehi, cosa vuoi fare? Sarà così, lasciamo rigiugare. Quindi che bacchiccio ha lasciato tutto già rada lasciando. E ha detto la moglie non ne vuole fino in mezzo ai piedi, no, non deve diventare ancora, se neanche ce l'ha giù in soggiorno va bene, buona una macchina non si vede nulla, buoni oddio da Nanzi non si vede nulla, però avere un capo in mezzo ai piedi non andava bene. Ho sentito stamattina al telefono, ma ci ha mandato, verso mezzodì e mezzo, mi ha detto che sta così così, però oggi sta tranquillo, più che altro. Infatti, bisogna stare tranquilli, stare a letto, fino a che non si rimargina tutto, mettersi a posto tutto quanto e stare tranquilli. Ok, ciao Gian Maria, ci risentiamo domani, ci risentiamo, ok. Tore, Tore. Allora, signor Maria, oh, signor Marino. Marino. Ha detto. Ehi, caspita, buonasera. Sei alzato, Tore. Sto a posto, sì. Non ti sento, avvicinati appena di più. Ho detto, tutto a posto, sì. E niente in ordine. Stavo parlando con Gian Maria sino a due minuti fa. Andato via, ok, dai. Gian Maria, stai ascoltando, buonasera, buona cena, sono tutto in casa. E ok, stavo facendo cosa e così via. Ho acceso adesso, là. Ok, bene, dunque, sono tutto...